المزمل l'avvolto. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. يا أيها المزمل. O tu l'avvolto nelle tue vesti. قم الليل إلا قليلا. Veglia una parte della notte. نصفه أو انقص منه قليلا. La metà oppure meno. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Oppure poco più. E recita il Corano lentamente, distintamente. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Faremo scendere su di te parole gravi. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila. In verità la preghiera della notte è la più efficace e la più propizia. Inna laka fin-nahari sabhan tawila. Durante il giorno hai occupazioni impegnative. Menziona il nome del tuo Signore e consacrati totalmente a Lui. Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fat. Il Signore dell'Oriente e dell'Occidente. Non c'è Dio all'infuori di Lui. Prendi Lui come protettore. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sopporta con pazienza quello che dicono e allontanati dignitosamente. Lasciami con coloro che tacciono di menzogna, che vivono nell'agiatezza, e concedi loro un po' di tempo. Inna ladayna ankalan wa jahima. In vero presso di noi ci sono catene e la fornace. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adhaban alima. E cibo che soffoca e doloroso castigo. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Nel giorno in cui la terra e le montagne tremeranno e in cui le montagne diventeranno come dune di sabbia fina. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. In verità inviammo a voi un messaggero affinché testimoniasse contro di voi, così come inviammo un messaggero a Faraone. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. Ma Faraone disobbedì al messaggero. Lo afferrammo allora con stretta severa. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ